Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Tutti voi, cari ascoltatori, l'augurio di una buona serata. Eccoci di nuovo attorno alla parola di Dio dopo aver celebrato con tutta la Chiesa nella giornata di ieri la solennità della Pentecoste. È proprio allo Spirito che anche questa sera chiediamo luce e grazia perché il nostro ascolto della parola sia il più possibile efficace. Ecco, ieri abbiamo contemplato l'azione dello Spirito sugli Apostoli. La pagina su cui stasera sosteremo insieme ci mostrerà come Gesù fino in fondo riesce a portare avanti il dono di sé. Ecco, il dono che ieri chiedevo allo Spirito Santo, no? Per me è proprio quello di che lo Spirito aiuti a discernere, a fare le scelte giuste, a imboccare queste scelte e a poi a perseverare in esse. Ecco, nella figura di Gesù che mediteremo, su cui mediteremo insieme questa sera, notiamo questo aspetto. Gesù sa fare le scelte giuste, sa imboccarle e soprattutto sa perseverare fino alla fine. Come sapete stiamo percorrendo insieme il Vangelo di Marco, siamo arrivati al capitolo 15 e il brano su cui sosteremo questa sera praticamente riflette, racconta il processo di Gesù davanti all'autorità politica. Capitolo 15 leggeremo sostanzialmente i versetti che vanno dal 1 al 20. Gli obiettivi della nostra trasmissione li conoscete, ma li richiamo, come al solito, in modo molto sintetico. Il nostro obiettivo è quello di scavare dietro il testo, cercando di far emergere a volte alcune ricchezze che magari nella traduzione italiana non emergono, oppure altre possibilità di traduzioni che una resa in una lingua a volte non riesce ad esprimere. Il nostro obiettivo però non è solo questo, abbiamo un secondo obiettivo, che è quello di permettere alla parola di Dio di toccare la nostra vita e quindi di passare da quello che è un approfondimento conoscitivo ad un contatto, ad un incontro che possa in qualche modo provocare, plasmare la nostra vita, destrutturandola anche in quelle che sono delle certezze che a volte su cui noi ci radichiamo. Ecco, il Signore emerge costantemente come colui che manda un po' in briciole le nostre certezze, i nostri sistemi di pensiero. E poi un terzo obiettivo, il terzo obiettivo è quello di arricchirci vicendevolmente. Come ricordo sempre, la nostra trasmissione non si costruisce solo sulla riflessione che io condivido insieme a voi, ma anche sulle vostre domande. Le vostre domande sono stimolo per me, ma sono soprattutto un dono per tutti coloro che ascoltano, perché inevitabilmente il relatore dà un taglio proprio, e il taglio proprio è sempre un taglio parziale. Le vostre domande aiutano a scavare ulteriormente il testo, a guardarlo da una prospettiva inedita, diventando così delle opportunità ulteriori per approfondire, per meditare. Ecco, chiedo a quanti sono nella possibilità, quindi non a coloro ovviamente che sono in viaggio, ma a quanti ne hanno la possibilità di aprire un'edizione della Bibbia, dei Vangeli, al capitolo 15 del Vangelo di Marco, in modo da seguire insieme a me passo dopo passo il testo. E questa sera chiedo la preghiera dei consacrati e delle consacrate, soprattutto a chi si prepara ad un passo importante, magari una professione perpetua, un'ordinazione, perché è questo momento che richiede la pienezza dello Spirito Santo, l'attesa di questo momento che richiede la pienezza dello Spirito Santo, torni a beneficio di tutti coloro che condividono insieme a noi la parola di Dio. Cominciamo subito ascoltando la prima parte di questo testo. Il processo di Gesù davanti a Pilato lo possiamo suddividere in tre grandi momenti, Il primo momento è la convocazione di Gesù davanti all'autorità politica, un secondo momento sarà il faccia a faccia tra Gesù e Pilato, il terzo momento è Gesù che viene affidato ai soldati. Ecco, questi tre momenti costituiscono le tre tappe di quello che è il processo politico a Gesù. E sono un po' le tre articolazioni attorno alle quali terrò la mia riflessione questa sera. Cominciamo ad ascoltare la prima parte, il primo brano, i versetti da 1 a 5. Ascoltiamo il testo. Subito al mattino, dopo aver tenuto consiglio, i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver legato Gesù, lo portarono e lo consegnarono a Pilato. Pilato lo interrogò: «Tu sei re dei Giudei?» Egli però rispose: «Lo dici tu». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Allora Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano». Gesù però non rispose più nulla, al punto che Pilato era meravigliato. Ecco, questa è il primo momento di questo processo. Notiamo una grande convocazione solenne che ha ancora al centro le autorità religiose. Ecco, il fatto che la responsabilità iniziale di questo processo sia da attribuire a loro lo si nota dalla sottolineatura da parte dell'evangelista dei soggetti in causa. Non si limita a precisare la loro presenza come un gruppo globale, tutto insieme. Non è che dice tutte le autorità religiose. No, Marco specifica chi è che sta portando Gesù a Pilato. Allora dice: i capi dei sacerdoti, gli anziani, gli scribi, tutto il sinedrio, vale a dire tutti quelli che rappresentano le autorità religiose per eccellenza del primo secolo, sono all'origine di questa consegna di Gesù nelle mani di Pilato. Tra l'altro torna costantemente questo verbo, il verbo consegnare. Abbiamo già avuto modo di sottolinearlo, l'elemento della consegna è un tratto che scandisce tutto il racconto della passione di Gesù. L'abbiamo visto già nel momento del Getsemani: Gesù si consegna nelle mani del Padre, lì viene consegnato nelle mani di Giuda e di quelli che vengono ad arrestarlo, il gruppo degli arrestatori l'ha consegnato alle autorità religiose, ora le autorità religiose lo consegnano a Pilato, Pilato lo consegna ai soldati, i soldati lo consegnano a coloro che lo devono crocifiggere. Quindi c'è un atto continuo di consegna, come se Gesù stia passando da una mano all'altra. Ora, dietro questo verbo consegnarono a Pilato, dietro il verbo della consegna, sta un elemento teologico di fondo. La vita di Gesù può essere racchiusa all'interno di questo termine. Il termine, il verbo greco è il verbo paradidomi, che scandisce la narrazione fin dal primo capitolo, quando ci viene narrato l'arresto di Giovanni Battista, e viene utilizzato proprio per indicare l'arresto di Giovanni Battista il verbo paradidomi in greco, quindi il verbo della consegna. Gesù si è appena lasciato immergere nelle acque del Giordano da Giovanni Battista, che diventa un pochino l'icona all'interno della quale lui porterà avanti il suo ministero pubblico, bene, questo ministero si apre con il verbo della consegna e viene portato a compimento seguendo passo dopo passo le caratteristiche di questo verbo, quindi si passa sia dall'inizio fino alla fine dalla strada della consegna. Ora, detto così, sembra facile. Nel momento in cui noi vediamo le modalità in cui si svolge questa consegna, notiamo che è un verbo molto esigente, perché non è una consegna che Gesù sceglie solo per sé, ma è una consegna che altri stanno scegliendo per lui. Gesù si è consegnato nelle mani del Padre, ma poi la volontà del Padre passa da una consegna all'altra che viene in qualche modo stabilita dagli uomini. Per cui Giuda lo consegna alle autorità, le autorità lo consegnano a Pilato, Pilato lo consegnerà ai soldati, i soldati lo consegnano a coloro che lo metteranno in croce. Quindi una via, quella che viene tracciata dal Maestro, che è una via molto esigente. Ecco, e proviamo anche solo a pensare alla fatica che noi facciamo nel momento in cui dobbiamo consegnare noi stessi in situazioni particolari, per quanto riguarda i religiosi o le religiose, come può essere il sottoscritto, ad alcune obbedienze che a volte possono essere chieste dai superiori, e in quel caso lì uno deve consegnare se stesso, un altro che decide, però se si bisogna fare un atto di fede credendo che quell'atto di consegna passa attraverso il mistero di una volontà, che è la volontà di Dio, che si esprime attraverso dei superiori. Ma pensiamo anche alla vita ordinaria di ogni giorno, quando magari bussa alla porta della propria vita una malattia. Uno che lo voglia o meno deve consegnarsi, e la malattia viene vissuta in pienezza solo nel momento in cui uno accetta di consegnarsi e di vedere in questa altra via, che è una via altrettanto misteriosa, altrettanto paradossale, altrettanto dura da ascoltare, da accogliere, il mistero della volontà di Dio, senza ovviamente nulla togliere a tutte quelle vie che noi abbiamo a disposizione per cercare di superare ovviamente la malattia, dalla via medica alla via della preghiera, alla via del sostegno, delle varie forme di sostegno umano, psicologico, fraterno, possiamo pensare tutto questo. Quindi la prima indicazione che ci viene posta davanti in questi primi 5 versetti è la consegna di Gesù. Secondo elemento che emerge da questo brano è la domanda che viene rivolta da Pilato. Se nel confronto con le autorità religiose la domanda che viene rivolta a Gesù è tu sei il figlio di Dio, in questo caso di fronte a Pilato la domanda è di tutt'altro genere. Pilato lo interrogò: tu sei il re dei giudei? Perché Pilato gli pone questa domanda? Il re dei giudei è un titolo che è stato portato nel contesto in cui Gesù si trova l'ultima volta solo da un re vero e proprio, che era Erode il Grande. Erode il Grande era morto nel 4 a.C., praticamente subito dopo la nascita di Gesù. Ecco, se Gesù avesse detto io sono il re dei giudei, la sua affermazione poteva implicare la pretesa da parte di Gesù di ristabilire il regno di Erode, un regno che gli storici lo spiegano molto bene, alla sua morte era stato suddiviso tra quelli che erano i suoi eredi più prossimi, e nessuno degli eredi più prossimi a Gesù, prossimi a Erode, aveva potuto prendere il titolo di re. C'era l'etnarca, c'era il tetrarca, in base alle parti del regno che uno aveva preso, ma nessuno più era diventato re come Erode il Grande. Fare la domanda a Gesù, tu sei il re dei giudei, era provare a verificare che in Gesù non ci fosse una qualche pretesa politica, volta a scalzare coloro che erano i governatori ufficiali, i prefetti, come se vogliamo utilizzare il titolo preciso, il titolo è prefetto, i prefetti della Galilea, della Giudea, come era anche Pilato. Pilato era il prefetto della Giudea. Ora, la risposta di Gesù è una risposta ambigua, perché Gesù non risponde né sì né no, ma dice semplicemente che quell'affermazione non proviene da lui. Lo dici tu, gli dice a Pilato, cioè non dice, non afferma e non nega, al punto tale che Pilato lo interroga di nuovo dicendo: ma come, non rispondi nulla? vedi di quante cose ti accusano, proprio perché vedendo la non risposta di Gesù, si ripete la stessa situazione che si era potuta notare nel caso del processo davanti alle autorità religiose, Gesù risponde con il silenzio. L'Evangelista sottolinea: i capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Qua ecco, c'è un'espressione, molte cose, che di per sé nella traduzione italiana si potrebbe rendere anche con un avverbio, cioè l'espressione greca potrebbe essere resa con un avverbio. Lo accusavano insistentemente, il concetto non cambia, la resa non cambia, cioè dire che uno viene accusato di molte cose, dire che viene accusato insistentemente, c'è una lieve sfumatura di diversità, ma la sostanza non cambia. Di fronte a questo Gesù reagisce con il silenzio, al punto tale che il silenzio mette in discussione chi lo interroga. Notiamo, qua è la prima volta nel processo a Gesù che si mostra, che viene mostrato come chi lo accusa in qualche modo viene sgretolato in qualcosa e chi si lascia interpellare e sgretolare un pochino nel suo interno dal confronto con Gesù, guarda caso, è un pagano, e non è un pagano qualunque, è Pilato. Sapete, Pilato nelle fonti ebraiche che abbiamo a disposizione, pensate alle fonti di Giuseppe Flavio, lo storico Giuseppe Flavio nella sua opera intitolata La guerra giudaica, oppure in quell'altro storico Filone Alessandrino nella sua opera Ambasceria a Gaio, descrivono entrambi Pilato con toni per niente positivi, e lo stesso storico romano Tacito negli Annali utilizza delle espressioni molto dure nei confronti di Pilato. Bene, una persona che viene descritta dalle fonti storiche che noi abbiamo a disposizione, sia ebraiche che romane, quindi sia di parte, sia quelle un pochino più distaccate dall'ambiente ebraico, e lo descrivono tutti come una figura molto dura, molto negativa, che ha fatto molti passi falsi, bene, di fronte a Gesù prova meraviglia. Gli evangelisti ci dicono che il silenzio di Gesù scalfisce, riesce a scalfire persino il cuore duro di questa persona. Ecco, in questi primi cinque versetti, gli elementi che vorrei sottolineare sono proprio questi due. Il primo è la consegna di Gesù come elemento che traccia la via del discepolo, e il secondo è il tipo di regalità che Gesù porta avanti. Certo, lui è il re dei giudei nel disegno di Dio, ma lo vive in un altro modo, cioè il suo potere non è il potere che si impone, ma il suo potere è il potere della consegna, che si manifesta in un silenzio che riesce a scalfire anche i cuori più duri. Ora lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno ha la possibilità di rileggere questi primi cinque versetti, prima di passare alla seconda parte del nostro brano, che ci presenta il faccia a faccia tra Gesù e Pilato, perché non riuscendo a ottenere niente da questo confronto aperto, il racconto ci presenta quasi un andare in disparte tra Pilato e Gesù ed entrare in un confronto aperto tra i due. Ma lasciamo per il momento un breve stacco musicale. Bene, la seconda parte, quindi vi dicevo, è il momento in cui Gesù e Pilato si confrontano faccia a faccia. Ascoltiamo il testo, siamo nei versetti che vanno dal 6 fino al versetto 15. In occasione della festa, egli era solito rilasciare un prigioniero, secondo la richiesta del popolo. Ce n'era uno chiamato Barabba, che era stato arrestato con alcuni ribelli che durante la sommossa avevano commesso un omicidio. Una volta arrivata, la folla cominciò a chiedere ciò che egli soleva fare. Allora Pilato replicò: «Volete che vi rilasci il re dei giudei?» Aveva infatti capito che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. I capi dei sacerdoti però sobillarono la folla perché egli piuttosto rilasciasse loro Barabba. Allora Pilato li interrogò di nuovo: «Che cosa dunque volete che io faccia a quello che voi chiamate il re dei giudei?» Quelli gridarono di nuovo: «Crocifiggilo!» Ma Pilato chiedeva: «Che cosa ha fatto di male?» Quelli però gridavano più forte: «Crocifiggilo!» Allora Pilato, volendo soddisfare la folla, rilasciò loro Barabba e consegnò Gesù, perché dopo averlo flagellato fosse crocifisso. Ecco, in questi versetti entriamo nella seconda parte del brano. Quindi la prima parte abbiamo la domanda diretta da parte di Pilato nei confronti di Gesù. Nella seconda parte notiamo da parte di Pilato il tentativo di salvare Gesù. Pilato si rende subito conto che le autorità religiose stanno facendo di tutto per mettere a morte una persona che a lui non sembra così colpevole, non possiamo dire innocente, però a lui non sembra così colpevole. Quindi cerca di giocare tre tattiche, tre volte, per liberare Gesù. La prima tattica è quella di far giocare a favore di Gesù un'usanza legata alla festa di Pasqua. Ci veniva detto che in occasione della festa egli era solito. Ora, questo imperfetto, era solito, indica un'azione ripetuta. Noi non abbiamo altre attestazioni relative a tale usanza esterne al Nuovo Testamento, esterne ai Vangeli. Per cui gli studiosi ritengono che forse più che un'usanza romana, probabilmente era un'usanza giudaica, siccome quanto sta succedendo avviene in occasione della Pasqua, e la Pasqua era la festa per eccellenza della liberazione dalla schiavitù, è probabile che a Gerusalemme, in occasione della festività ebraica, della festività per eccellenza della liberazione, si chiedesse al governatore di liberare una persona di origine ebraica, proprio per dare ancora più concretezza alla memoria dell'esodo. Allora Pilato sembra voler giocare su questa usanza per liberare Gesù e cerca di stimolare addirittura il popolo ricordando le origini di Gesù, perché chiamandolo re dei giudei ne richiama in qualche modo la sua identità ebraica. Però cosa succede? Succede che la folla sorpresa chiede che sia liberato Barabba. Quindi la prima tattica non funziona. A questo punto Pilato tenta una seconda tattica, cioè invoca una seconda strategia, che è quella di chiedere alla folla stessa la tipologia di condanna a cui sottoporre Gesù, non pensando sicuramente alla morte. Ma anche di fronte a questa seconda tattica resta un po' con le spalle al muro, perché in modo del tutto inatteso le autorità religiose giocano di anticipo e chiedono per Gesù niente meno che la crocifissione. A Pilato non resta a questo punto che giocare l'ultima carta, ed è la terza volta che lui interviene, no? Dove si esprime la totale debolezza di Pilato. Perché da un lato cerca di mostrare la sproporzione tra ciò che si chiede e quello che Gesù ha fatto, perché dice: ma che cosa ha fatto di male per meritare la crocifissione? Dall'altro si sottrae alle proprie responsabilità di fronte a quelle grida che diventano sempre più forti e che chiedono la crocifissione di Gesù. Quindi Pilato da un lato cerca di liberare Gesù mostrando la sua convinzione nei confronti dell'innocenza di Gesù, dall'altro però non vuole che quelle grida suscitate dalle autorità religiose vadano poi a proprio svantaggio, come bene diranno gli altri evangelisti nella narrazione del testo. Quello che è curioso è che Pilato emerge da questa scena come una figura tragica e prigioniera. Il vero prigioniero di questa condanna a morte, il vero condannato qui, prima di Gesù, è Pilato. È Pilato. Che per lui si ripete una situazione simile a quella di Erode Antipa nel contesto della condanna a morte di Giovanni Battista. Ricordate quella scena in cui danza la figlia di Erodiade e praticamente di fronte a quella promessa di Erode Antipa, chiedimi tutto quello che vuoi, te lo darò anche fosse la metà del mio regno, lì Erode Antipa resta con le spalle al muro perché è costretto a chiedere la decapitazione di Giovanni Battista e a trasformare la sua festa di compleanno in una scena di orrore, quel piatto che passa con la testa del decapitato insanguinata sul piatto, e alla fine ecco, si rivela Erode Antipa come il vero prigioniero della scena. Il vero decapitato, la vera persona che non ha nessun potere. Ecco, lo stesso avviene qui. Pilato è una figura tragica, perché insieme a Gesù è anche lui ad essere condannato come schiavo di una serie di giochi di potere che mettono a morte la sua libertà. Ecco, in Pilato si riflette sostanzialmente una scena che è destinata a ripetersi più volte lungo la storia dell'uomo, quando per non creare, come dire, disagio in una fetta del popolo, cosa si fa? Si calca la mano sull'altra fetta che è magari innocente. È come dire uno specchio in cui ci possiamo riconoscere anche noi, eh? Quante volte magari tacciamo una cosa perché rischierebbe di essere troppo scomoda, rischierebbe di tornare a nostro sfavore e allora preferiamo tacere, preferiamo che le cose vadano avanti, preferiamo non prendere posizione. Ecco, non vediamo Pilato come una persona lontana da noi, Pilato ci somiglia, ci somiglia. Quindi, in questa scena emerge molto forte la tragicità di quest'uomo. Un secondo elemento che merita di essere sottolineato da parte in questa scena è il ruolo di Barabba. Il nome di Barabba è un nome che merita di essere ripreso. Barabba in aramaico significa figlio del padre. E forse nel testo teniamo presente che Marco ama giocare sulla terminologia aramaica. Nei momenti chiave della narrazione lui riprende il testo sottolineando le parole aramaiche. Pensiamo alla preghiera nel Getsemani quando viene richiamata l'espressione Abba, Padre. Pensiamo al momento della crocifissione dove Gesù grida sulla croce Eloi, Eloi, lema sabachthani. Pensiamo ad alcuni interventi di guarigione, come l'effatà, quello che permette la guarigione, no? del sordomuto e così via. Quindi scene in cui Gesù interviene e utilizzando quella che era la sua lingua nativa. Barabba, dicevo, etimologicamente significa figlio del padre. Sembra esserci nel testo un esplicito desiderio di mettere in contrasto Barabba con Gesù, quindi il figlio del padre da un lato con il vero figlio del padre che è Gesù. Quindi si crea una sorta di scambio nel mistero pasquale, una sorta di scambio dove il vero figlio del padre muore perché i figli del padre colpevoli siano liberati. In altre parole, Barabba sembrerebbe essere colui che nel nome, nella sua etimologia, porta tutti noi. E lui, figlio del padre colpevole, non è altro che l'emblema, così l'hanno letto i padri della Chiesa, l'emblema di ciascuno di noi. Tra l'altro viene presentato in questo modo dal testo. Ce n'era uno chiamato Barabba che era stato arrestato con alcuni ribelli che durante la sommossa avevano commesso un omicidio. Durante la sommossa, non durante una sommossa. Sembra che l'Evangelista voglia ricordare a chi legge che la sommossa di cui parla è una sommossa ben precisa, che tutti ricordavano, eh? Quindi qualcosa di molto concreto, che tutti, appunto, di cui tutti avevano memoria. Quello che è significativo è che tra Gesù e Barabba viene a crearsi una sorta di confronto tra due modi di incarnare la via la ricerca dell'uomo, la ricerca della libertà da parte dell'uomo. Da una parte Gesù la incarna attraverso la consegna di sé, Barabba invece attraverso la via della sedizione. Il primo dà la vita, il secondo colpisce a morte, causa un omicidio. Il primo si presenta come viene deriso come re dei giudei, il secondo viene presentato come un ribelle. Ecco, vedete, anche qua Barabba diventa un pochino il secondo aspetto in cui noi ritroviamo noi stessi. Ecco, di fronte a un'ingiustizia, a qualcosa che ci fa male, anche noi rischiamo spesso di imboccare la via di Barabba. Al posto di consegnare noi stessi, prendiamo le scorciatoie della sedizione. Al posto di immaginare un percorso in cui si dona la vita, preferiamo colpire, far male all'altro, trovare dei modi per, lasciare nel cuore dell'altro la tristezza. Al posto, ecco, di lasciarci umiliare, preferiamo umiliare l'altro usando, ecco, la via della ribellione. È chiaro, non è sempre facile scegliere la via di Gesù, la via del mistero pasquale è una via, abbiamo detto, molto esigente, però è quella che ci viene tracciata davanti. Quindi notate, in questa seconda parte del brano abbiamo due figure che ci vengono presentate, la figura di Pilato prima e la figura di Barabba poi, che in qualche modo possono fare da specchio. Il primo è lo specchio di tutti quei momenti in cui, per non trovarci in una posizione scomoda, lasciamo correre e lasciamo che magari un'altra persona o altre persone vengano umiliate, calpestate, l'importante è star noi tranquilli. Dall'altra parte invece, nella figura di Barabba, troviamo le scorciatoie della violenza con le quali ci illudiamo a volte, o della violenza, del ricatto, del vendicarsi, cioè tutte queste forme sono scorciatoie in cui noi pensiamo di risolvere le situazioni, mentre Gesù presenta un'altra via, che è la via del dono, un dono esigente e radicale. Ecco, lasciamo anche dopo questo secondo brano un altro stacco musicale, in modo che ciascuno ha modo di rileggere questi versetti, di provare a ripercorrerli attraverso queste due figure specchio, la figura di Pilato e la figura di Barabba, prima di passare al terzo episodio, dove Gesù viene consegnato nelle mani dei soldati. Un breve stacco musicale. Eccoci quindi al terzo momento di questo processo politico nei confronti di Gesù, dopo il faccia a faccia tra Pilato, Gesù e le autorità religiose. Abbiamo visto questo confronto tra Pilato e il popolo per prendere una decisione su Gesù. Alla fine la decisione è presa, il verdetto è siglato da Pilato, l'unico che poteva decidere la condanna a morte di Gesù in modo pubblico. A questo punto entriamo nel terzo momento, che è il momento in cui Gesù viene consegnato nelle mani dei soldati. Ascoltiamo il testo dal versetto 16 in poi. I soldati allora lo portarono dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e lo coronarono intrecciando una corona di spine. Quindi cominciarono a salutarlo. Salve, re dei Giudei. Con una canna gli percuotevano il capo, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero addosso i suoi vestiti. Lo condussero quindi fuori per crocifiggerlo. Allora, notiamo che anche questa scena inizia con una convocazione. Tutte e tre le scene sono iniziate così. Nel primo caso vengono convocate tutte le autorità religiose davanti a Pilato, abbiamo visto come Marco le menzionava una ad una. Nella seconda parte viene convocato tutto il popolo per prendere la decisione su Gesù e le autorità religiose sono dietro a sobillare. In questo terzo momento viene convocata tutta la corte. Che cos'è la corte? La coorte era la decima parte di una legione ed era composta da circa 600 soldati, da qui capite che la legione erano 6.000 soldati. Ricordate l'episodio, no? Dove Gesù libera un uomo posseduto da una legione di demoni. Essere posseduto da 6.000 demoni non deve essere molto simpatico, no? Qui abbiamo la coorte che è la decima parte di una legione, quindi 600 soldati. Dalle fonti storiche del primo secolo, qui ci rifacciamo soprattutto a Giuseppe Flavio, sappiamo che negli anni 40 le coorti che stanziavano in Palestina erano 5, una di queste a Gerusalemme. Queste 5 coorti presenti in Terra Santa diventeranno ben 23 durante la prima guerra giudaica e alcune di queste composte addirittura da un migliaio di uomini. Erano ovviamente delle truppe, possiamo chiamarle così, a cui era affidato l'ordine pubblico e c'era bisogno che il territorio fosse presidiato, perché le sedizioni erano all'ordine del giorno. Ora, in questo caso la convocazione di tutta la corte non è del tutto verosimile, perché siamo in piena festa ebraica, siamo in prossimità della Pasqua, sicuramente c'erano altre zone da presidiare, però all'Evangelista interessa sottolineare come attorno a Gesù ogni volta ci sia una convocazione di tutte le persone, quindi la convocazione di tutte le autorità religiose prima, di tutte le autorità politiche dopo e poi della parte più bassa del popolo che è quella dei soldati sostanzialmente. La scena viene descritta come una parodia. Tutti gli elementi che compongono questa scena, e qua ci sono degli studi molto dettagliati sulla scena, fanno pensare a una sorta di racconto al contrario di quella che era l'intronizzazione di un nuovo re. Tanto vero che il saluto stesso, salve re dei Giudei, richiama quell'elemento che fa da unità tra tutte e tre le scene, perché in tutte e tre le scene Gesù viene chiamato e condannato a morte come re dei Giudei. Quali sono gli elementi che costituiscono questa parodia? Il primo elemento è la convocazione di tutta la corte. Quando arrivava il nuovo re, tutte le forze in campo venivano convocate. Qui ovviamente la corte viene tutta convocata per insultarlo. Poi il rivestimento della porpora. Anche qua è inverosimile che a Gesù venga messa una porpora, perché la porpora era un tessuto molto pregiato e è difficile pensare che i soldati lo indossassero. Era probabilmente un manto scarlatto, un manto rosso, che viene gettato addosso a Gesù. Anche qua facendo la parodia di quello che avveniva nel momento in cui un re veniva intronizzato. Veramente quando un re veniva intronizzato veniva rivestito del manto regale per eccellenza, che era il manto di porpora. Poi l'imposizione della corona, per Gesù è una corona di spine, però era un altro gesto, un altro emblema che serviva per indicare l'intronizzazione del nuovo re. Dopo l'incoronazione del nuovo re c'erano i gesti di omaggio, i gesti di omaggio che qui vengono sostituiti dagli insulti e dagli sputi. Dopo il gesto di omaggio c'era l'imposizione dello scettro, cioè veniva consegnato lo scettro nelle mani del nuovo re, simbolo ovviamente del suo potere regale. Lo scettro viene qui sostituito dalla canna con cui percuotono il capo. E dopo che aveva ricevuto tutte le insegne, c'era il gesto di omaggio dei presenti, per cui il gesto di omaggio dei presenti era in genere fatto da un saluto o da un inchino, dalla genuflessione davanti al nuovo re intronizzato. E qui anche questo viene praticamente trasformato in un gesto di insulto, perché piegando le ginocchia si prostravano a lui, prendendolo ovviamente in giro. Tra l'altro è interessante sapere che nell'intronizzazione di un re nel primo secolo c'era anche la scelta di quelli che erano i suoi consiglieri per eccellenza, che prendevano subito posto alla sua destra e alla sua sinistra. Ora qui sapremo che subito, mentre lo portano fuori per essere crocifisso, verranno condotti con lui altri due che saranno crocifissi, uno alla destra e uno alla sinistra. Quindi quello che è il corteo regale è praticamente presentato al completo. Alla fine di tutto lo spogliano della porpora e gli rimettono addosso i suoi vestiti. Anche qua una delle umiliazioni che era inflitta ai condannati alla morte di croce nel primo secolo era l'umiliazione della nudità totale. Sapete, la nudità indicava la privazione totale della dignità del condannato, cioè quando uno era privato dei suoi vestiti non era più niente, non era più nessuno. Probabilmente a Gerusalemme c'era una sorta di deroga, essendo una città santa e trovandoci tra l'altro in un tempo santo particolare, che era quello della Pasqua, probabilmente si permetteva che i condannati, fino all'uscita della città santa, si chiedeva che fossero coperti, proprio per non portare, non lasciare delle tracce di impurità in quello che doveva essere un terreno santo. Per cui rivestono Gesù e, giunto poi al Calvario, verrà nuovamente spogliato e quindi esposto all'umiliazione massima che prevedeva questa condanna a morte. Quello che mi preme sottolineare in questo episodio è la parodia a cui Gesù viene esposto, il suo modo di acquisire la regalità, che è tra l'altro il capo di accusa per cui viene messo a morte, è un modo che è caratterizzato ancora dal verbo che abbiamo visto all'inizio, dal verbo della consegna. È una consegna che passa attraverso la derisione e attraverso il contrario di quello che ci si aspetterebbe. E qui è necessaria ancora una riflessione per noi. Quante volte ci sembra che le cose che capitano, ci succedono, siano proprio il contrario di quello che ci aspetteremmo? Che ci aspetteremmo per chi fa un cammino spirituale solido, che ci aspetteremmo come regalo del buon Dio nei nostri confronti, che ci aspetteremmo da chi ci vuole bene, da chi ci sta attorno. A volte sembra esattamente il contrario. Brani come questo ci dicono che a volte è proprio così, cioè misteriosamente, paradossalmente, Dio passa dalla via contraria a quella che noi ci aspetteremmo. Noi andremmo così per istinto, per fiuto andremmo in una direzione, bene, Dio sceglie di andare nella direzione opposta e non per questo viene meno nella sua chiamata di fondo, nella sua chiamata originale. Ecco, davanti a scene come questa non ci resta che chiedere proprio allo Spirito Santo la capacità di discernere bene le vie di Dio, per non trovarsi ad escludere la presenza di Dio in momenti, in situazioni, situazioni di vita che magari sono, ci sembrano paradossalmente troppo complesse. E non solo di discernere bene, ma di continuare a imboccare quella strada e soprattutto, come dicevo all'inizio, di perseverare fino alla fine. Ecco, cari ascoltatori, vedete come questi 20 versetti del capitolo 15 su cui ci siamo soffermati questa sera sono carichi come sempre di tanti motivi di riflessione. Ora, oltre allo stacco musicale, anch'io fermo il mio eloquio, le mie parole, per lasciare invece spazio a voi. Quindi ora lo spazio musicale sarà un pochino più lungo, in modo che ciascuno di voi ha tempo e modo di formulare la propria domanda, la propria breve riflessione, per arricchire con la vostra esperienza, con il vostro ascolto, con i vostri interrogativi, questa nostra riflessione condivisa. Quindi resto in attesa dei vostri quesiti e nel frattempo, mentre c'è lo stacco musicale, vi chiedo di rileggere, ripercorrere questo testo. Ecco, più noi rileggiamo i testi biblici, più questi entrano, passano dalla testa al cuore e soprattutto scritolano un pochino anche le nostre piccole e grandi convinzioni che a volte sono un ostacolo all'azione dello Spirito nei nostri cuori. Pronto? Pronto, buonasera, sono Tommaso Prima da Trepulsi, provincia di Lecce. Bene, mi dica, signor Tommaso. Sì. Ecco, io, padre, mi soffermavo in particolare sulla figura di Pilato, no? Perché secondo me, anche se la Chiesa, diciamo, in certo senso lo condanna alla fine, no? Per il modo di dare così Gesù al popolo, quindi alla sua crocifissione e morte, io però vedo in Pilato, in quelle occasioni che ha cercato, tra virgolette, di difendere Gesù, ecco, di non mandarlo a crocifissione, dentro di sé un voler quasi, diciamo, credere che si trova di fronte a una figura straordinaria, ecco, non so, infatti dentro di me non sento questo bisogno proprio assoluto, come fanno tanti, di condannare la figura di Pilato. Penso che un povero uomo in quel momento si trova quella situazione, però dentro di sé cerca di credere che si trova veramente una figura straordinaria. Cosa ne pensa lei, padre? Grazie. Allora la ringrazio, Tommaso, per la sua domanda. Ma io direi che lei si trova in piena sintonia con alcune porzioni di cristianesimo. C'è una parte della Chiesa ortodossa che venera Pilato come un santo, ritenendo che Pilato, dopo la condanna a morte di Gesù, abbia avuto anche lui un suo percorso di conversione, per cui tra i santi viene venerato proprio San Pilato, a motivo della sua conversione. Questo non c'è nella tradizione cattolica, però in un'altra confessione cristiana Pilato è venerato come santo. Ora, quando noi andiamo a leggere i resoconti degli storici del primo secolo, dei primi secoli, su questa figura, magari restiamo un pochino, come dire, colpiti. Effettivamente di Pilato viene messa in evidenza molto la sua violenza, più volte anche nei confronti del popolo ebraico, del popolo residente in Terra Santa, addirittura arriva a gesti volutamente provocatori per suscitare sedizioni che giustifichino poi i suoi interventi violenti. Tra l'altro Pilato verrà deposto dal regno proprio per la sua violenza da una delegazione che andò a Roma e si lamentò proprio dicendo: non è possibile andare avanti così, non è possibile che facciate finta di non vedere. Pilato sta agendo con violenza contro il popolo e a quel punto Pilato sarà deposto dal suo regno. Quindi è difficile, ecco, di fronte a racconti del genere pensare a una sorta di conversione di quest'uomo, però noi sappiamo, la provvidenza non ha mai limite, l'azione dello Spirito di Dio può arrivare anche all'ultimo momento della propria vita, per cui nella Chiesa ha trovato spazio anche una, ha trovato, come dire, radicamento anche la convinzione di alcuni che sono convinti che a un certo punto Pilato sia andato incontro ad un percorso di conversione e lo venerano nel loro calendario dei santi come santo da venerare. Grazie Tommaso per la tua domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Sono Adriana da Roma. Senta, padre, a proposito della nudità di Gesù, io ho assistito a delle conferenze sulla Sindone, conferenze fatte da studiosi, e hanno detto che probabilmente Gesù era coperto sul pube, perché sembra che il sangue a un certo momento si sia fermato e quindi non era tutto nudo, perché non hanno rilevato tracce di sangue oltre un certo punto del corpo. Sì, allora la ringrazio Adriana per questo suo intervento. Ecco, io non sono un esperto della Sindone, quindi non intervengo su questo aspetto. Mi premeva, ecco, sottolineare questa dimensione, la dimensione della nudità, come un elemento che caratterizzava la condanna a morte di Gesù, la condanna a morte per crocifissione nel primo secolo. Tra l'altro colpisce un aspetto. Noi abbiamo le prime rappresentazioni della croce, risalgono al terzo secolo, fine secondo, inizio terzo secolo, proprio perché la croce era un segno di umiliazione, quindi non c'erano segni di venerazione di fronte a un simbolo così importante. Ecco, le prime raffigurazioni della croce che noi abbiamo risalgono alla fine del secondo secolo, inizio del terzo, e sono tutte rappresentazioni che troviamo su sigilli. È curioso che in questi primi sigilli a nostra disposizione, noi stiamo per pubblicare un libretto proprio sul simbolo della croce, proprio in questi sigilli viene rappresentato Gesù in croce nudo. Questo colpisce, proprio perché la nudità era la massima umiliazione a cui veniva esposto il condannato a morte, alla morte di croce. Questo assume un certo rilievo, a mio avviso, anche nella narrazione del Vangelo di Marco, perché il Vangelo di Marco è l'unico Vangelo che sottolinea in modo forte la nudità di Gesù, lo sottolinea al centro del racconto della Passione, quando viene dato risalto al gesto della spogliazione di Gesù, un dettaglio questo che verrà ripreso dal quarto Vangelo, che tiene a sottolineare come Gesù viene spogliato delle vesti e della tunica, quindi di tutti i due gli abiti che indossava. E poi perché all'inizio e alla fine si parla di quel famoso giovane, il Neaniskos, quel famoso giovane, quello che viene spogliato mentre cerca di seguire Gesù, le guardie lo vogliono arrestare, lascia il suo mantello, la sua tunica, era una tunica probabilmente notturna, nelle mani dei soldati, e il testo dice fuggì via nudo. Questo giovane lo ritroviamo al momento della risurrezione rivestito di una sindone sul corpo nudo, cioè torna il tema costantemente, il tema della nudità, e alcuni studiosi ritengono che questo richiamo alla nudità, utilizzando il termine specifico per indicare la nudità che è gynos all'interno del testo, voglio proprio menzionare la massima kenosi, la massima umiliazione del Figlio di Dio, cioè Dio si spoglia a tal punto di se stesso da assumere la condizione dell'uomo al suo stato più fragile, più naturale. Lo sappiamo molto bene, noi nasciamo nudi e moriamo nudi, e questo dice tutta la nostra creaturalità. Dio assume la creaturalità fino in fondo per poi rivestirci della sua gloria. Ora, questo ovviamente è il messaggio teologico, signora Adriana, poi che Gesù avesse una fascia attorno ai fianchi o fosse nudo totalmente, quello dal mio punto di vista è secondario. Quello che è importante è capire, cogliere il messaggio che l'Evangelista vuole dire, perché in quel messaggio sta l'elemento di fede che illumina la nostra esistenza, cioè nel momento in cui noi ci troviamo più esposti, più fragili, più vicini alla situazione creaturale, spoglia che ci possa essere, e qual è la situazione di massima spogliazione, se non il momento della morte, ecco, quello è il punto in cui Gesù ci raggiunge nel modo più forte, perché ha donato la vita in quel modo, quello è il modo più esigente che lui ha raggiunto per abbracciare ciascuno di noi. Grazie per questo quesito che tocca un elemento delicato ma di massima importanza. Pronto? Pronto Don Giacomo? Sì, con chi parlo? Buonasera, sono Lelio da Milano. Ascolti, sì. Grazie per la ricchezza della sua catechesi e per queste parole che ha detto adesso, così belle, piene di pace, di luce e di verità. Io stavo leggendo un'ora fa l'enciclopedia di Medjugorje del mese scorso e volevo fare questa domanda: se Papa Francesco è effettivamente una figura a favore dell'approvazione della Madonna di Medjugorje. E poi volevo fare questa domanda: Gesù sulla croce, lei ha parlato, siccome domani è la festa di Santa Rita e poi leggevo anche Gemma Galgani ultimamente, no? Queste due sante vivevano la gioia nella sofferenza. Allora, lei ha parlato all'inizio della sua catechesi che io posso vivere la malattia, la sofferenza, o come un atto di ribellione o come un atto di offerta, no? Allora, se io la vivo come una... come mai la Galgani, che aveva anche la possessione diabolica, e Santa Rita, che aveva una spina atroce e dolorosissima, forse che avevano ricevuto rivelazioni sulla misericordia, sul Sacro Cuore, o per predilezione o per preghiera perseverante, e anche dopo momenti di aridità. Ecco, volevo chiederle se lei conosceva di Santa Rita e Gemma Galgani. Questa è una risposta su Papa Francesco, l'ascolto per radio, grazie. Allora, grazie Lelio per le tue domande. Allora, non sono in grado di rispondere alla domanda su Papa Francesco e nemmeno a quella che riguarda Santa Rita d'Acacia e Santa Gemma Galgani, perché non conosco così bene le loro esperienze di vita per rispondere al tuo quesito. Però il tuo quesito mi è prezioso per riprendere questo concetto, no, della gioia all'interno della sofferenza. E lo faccio anche qua partendo da un'altra testimonianza, che non è quello di Santa Rita d'Acacia e nemmeno di Santa Gemma Galgani, ma di una figura molto, molto più vicina a noi. Sto facendo riferimento alla storia di una mamma, di una mamma di famiglia, 38 anni, morta quasi un anno fa, quindi non è ancora un anno dalla sua morte, per un tumore, con tre figlie. Noi stiamo per pubblicare il testo di questa figura, si chiama Francesca Pedrazzini, il titolo del libro è Io non ho paura, che è l'ultima frase che lei ha detto al momento della morte, quindi una storia, se vuoi, molto, molto quotidiana, molto, molto comune, una donna colpita da un tumore in età giovane, che affronta con la fede questo calvario, al punto tale che nel momento, ovviamente all'inizio c'è tutta l'esperienza della ribellione, poi alla luce della fede c'è un percorso costante di consegna, non facile ovviamente, di se stessa, per vivere insieme a Gesù questa esperienza. E questa esperienza diventa talmente radicata, no, dentro di lei, che il percorso verso la morte diventa praticamente il percorso al salto nel paradiso. E quello che è il momento del suo funerale diventa una festa. È interessante la testimonianza di coloro che hanno vissuto insieme a lei gli ultimi momenti proprio della sua esistenza, no? Quando ad esempio chiama uno ad uno i suoi figli e a ciascuno fa un dono, e alla figlia più piccola il giorno prima di morire regala un paio di orecchini dicendo: questi te li devi mettere al momento del mio funerale, perché il mio funerale, ricordati, è la mia festa, perché io vado incontro a Gesù e da là continuerò, cioè sarò con voi, continuerò a essere con voi perché Gesù mi ha chiamato là, non è che vado per abbandonarvi, quindi tu devi mettere gli orecchini per far festa. E così nel testo c'è anche la testimonianza di un taxista che accompagna una persona a questo funerale, e questa persona era una delle amiche della Francesca Pedrazzini, e quindi era vestita tutta bene. Quello del taxi gli dice: sta andando a un matrimonio? E lei dice: no, sto andando a un funerale. Quindi lui tace. Poi nel momento in cui si trova a lasciare la persona davanti alla chiesa, siccome vede che tutte le persone attorno sono comunque persone che non stanno piangendo, non sono disperate, ma vivono con un atteggiamento di grande serenità quel momento, scende e dice: ma scusate, è vero che qui si sta celebrando un funerale? E la gente gli dice sì. Lui si ferma e vede come si svolge quella celebrazione, ed è qualcosa che lo tocca e lo segna profondamente, perché quel modo di vivere tutta quell'esperienza nell'ottica della fede cambia radicalmente il modo di vivere la sofferenza. Quindi, per dire chiaro, Santa Rita d'Acacia, Santa Gemma Calgani, il rischio nostro magari è di vedere in queste figure delle figure del passato lontane da noi. Bene, quello che loro hanno vissuto, c'è molta gente nella quotidianità, no, che lo vive facendo un proprio percorso di fede. Ecco, la nostra scelta di pubblicare questa storia, questa testimonianza, nasce dal fatto di mostrare come la fede si può radicare nella quotidianità di ciascuno di noi, può diventare testimonianza luminosa nella storia di ogni famiglia, nella gente normale, passando anche attraverso momenti di lacrime, di ribellione, di parole forti, però nel momento in cui ci si consegna al Signore, il Signore ci prende veramente per mano e ci fa fare dei passi che nessuno si sarebbe aspettato di fare. Grazie Lelio per questa tua domanda. Pronto? Pronto, con chi parlo? Daniela. Bene Daniela, mi dica. Chiamo da Roma. Sì. Andando prima della domanda, volevo dire che vi seguo sempre, è un'ottima trasmissione questa volta. Ah, bene. Mi dica, qual è la sua domanda? Ma lei parlava, insomma, non so, della sofferenza, no? Sì. Cioè, in un certo modo voglio capire un po' di più questo argomento. Sì. C'ha una domanda particolare o... Solo questo. Va bene. Grazie Daniela da Roma per questa telefonata. Allora, la richiesta di Daniela è una richiesta complessa, perché quando uno dice vorrei capire qualcosa di più della sofferenza, non è facile rispondere, no? Capite bene, penso anche voi cari ascoltatori, che questa è una domanda molto, molto impegnativa. Che tipo di risposta si può dare a Daniela? Ma io penso che della sofferenza non è che si può parlare molto in astratto, perché quando uno parla in astratto della sofferenza lascia il tempo che trova. il modo migliore per parlare di un mistero così grande che non è fatto per l'uomo, perché noi non siamo fatti per la sofferenza, non nasciamo per soffrire, sia quello di incontrare, di passare attraverso testimonianze concrete. Ora, ovvio, la prima testimonianza che dobbiamo avere davanti a noi, per noi cristiani, è quella di Gesù, e quindi il passare in così tutto, passare in rassegna le pagine del Vangelo è il modo migliore per vedere non solo come Gesù vive la sofferenza, ma come Gesù si accosta a chi soffre. E allora in questo duplice, da questo doppio punto di vista possiamo già capire qualcosa. Da come Gesù si accosta a chi soffre, cogliamo la grande dignità di chi soffre. Chi soffre è colui che più di ogni altro è invitato da parte di Gesù, da queste pagine del Vangelo, è quello che è più degno quasi di accostare il mistero di Dio. Dall'altra parte, da come Gesù vive la sofferenza, noi riusciamo a capire che nella sofferenza proprio non siamo soli, c'è un Gesù che la vive insieme a noi. L'altra formula è proprio questa, è proprio quella di passare, di provare a vedere l'esperienza della sofferenza attraverso altre figure che ci sono passate in mezzo, figure più vicine a noi. Prima raccontavo la storia di questa mamma di famiglia, ma le storie e anche le pubblicazioni, anche i filmati in tal senso ce ne sono numerosissime. Mi ha sempre colpito un testo molto agile che narra la storia di San Francesco da questo punto di vista, ed è il testo di Leclerc, se non sbaglio, se non erro, Sapienza, dal titolo Sapienza di un povero. Non ricordo l'editore, altrimenti ve lo direi, non ho timore di fare pubblicità. Però ecco, se avete modo di ripercorrere la storia di San Francesco attraverso questo testo, ve lo consiglio, perché fa capire come dietro la grande figura, no, di San Francesco, che a volte viene un po' presentato in modo idilliaco, ci sia un percorso attraverso la sofferenza che a volte nemmeno immaginiamo. Ed è questa che poi si concretizza nel segno anche delle stigmate, che lo plasma fino al punto da renderlo il santo quale esso è. Anche attraverso questo percorso si realizza quella sua scelta di povertà che lo segna, che lo caratterizza. Ecco, questi sono solo due esempi, cara Daniela, però è chiaro, nel mistero della sofferenza non ci sono delle ricette preconfezionate, ognuno ha un suo percorso all'interno di essa, ognuno ha una sua chiamata all'interno di essa, e la via della fede si incarna nelle pagine di dolore per ognuno in un modo diverso. Quindi quando il Signore farà anche a te la sua chiamata in tal senso, ti darà anche gli strumenti per saperla percorrere. Penso tra l'altro che su questo tema molti dei nostri ascoltatori avrebbero molto da dire, molto di più di quello che posso dire io a voi in questo momento. Grazie Daniela per il tuo intervento. Pronto? Sì, pronto? Con chi parlo? Pronto, sono Antonio. Mi dica Antonio, ecco, da dove siamo? Io la ringrazio, dal Veneto, Padova, sì. Io la ringrazio, bene. Ecco, proprio mentre stavo parlando di questo argomento io sono stato interrotto per la chiamata, ma quindi ho seguito in parte, ma qualcosa ho capito. Ecco, e quello che vedo io, mi avvicino così da poco a queste cose, no? E quindi non sono addentrato nella teologia, nello studio, nell'esegesi, nella fede così dentro forte, no? E quindi mi avvicino però con timore di Dio su quello che chiedo, non è che voglio fare dei giudizi, io voglio testimoniare, diciamo, quello che è la sofferenza, no? Sì. Quindi chi non è dentro, chi accetta questo, lei ha detto che la fede poi ti porterà, ti aiuterà, se no ti dà il castigo ti darà anche l'aiuto, ma io lo spero, ma io dico, mi metto di fronte a chi è ammalato, che devo portare la buona novella, no? E gli dico, guarda, guarda, soffri, che è l'amore di Dio che ti fa soffrire, perché è il disegno di Dio, come aveva detto all'inizio, oppure lui va in direzione opposta. Dico, allora io no, come ho timore di Dio, quindi non mi permetterei mai di giudicare e di dire, ma perché queste cose o quell'altra. Solo che io dico, io accetto, se la sofferenza, la malattia mi viene e me la devo tenere e stop, non c'è niente da fare. Se qualche medico o qualcosa riuscirà a guarirmi, bene, se no me la devo tenere. Però dico, io soffro, ma dico, ma che bella notizia è che il Dio che è padre, dico, che è padre, se un padre ama, perché deve dare sempre la sofferenza, perché, anche soprattutto nella malattia, perché capisco la sofferenza nella vita, nell'affaticare, nell'affrontare le difficoltà e tutte queste cose, è giusto perché progredisce l'uomo, se non sa queste cose non si sviluppa, non va avanti. Ma sentire che mi capita una malattia di quelle incurabili, di quelle, o altri tipi di malattie, anche mentali, eccetera, che porta via, diciamo, per noi normali, ci porta via dal senso di un rapporto di vita piena, no? E dire che questo, io quando vado a trovare queste persone trovo che devo portare la novella che non è questa persona addentrata nella fede, perché voi, visto che parlate sempre di persone che sono molto addentrate nella fede, ma vorrei anche un argomento fatto per chi non è già dentro nella fede e si trova in questo dramma, mi comprende? Certo. Allora, la ringrazio Antonio per questa sua condivisione, la ringrazio anche per il momento, no, di commozione che ha avuto mentre formulava la domanda, perché ci aiuta a capire come siamo davanti a un argomento molto, molto forte, da tanti punti di vista. Giustamente lei dice, un conto è parlare della sofferenza che può essere legata all'impegno, a portare avanti dei motivi di giustizia. Un conto è trovarsi davanti a una sofferenza dura, davanti a una malattia inguaribile, davanti a una malattia mentale. Come ci poniamo? Com'è possibile che un Dio che ci ama ci espone a situazioni del genere? Ecco. È chiaro, anche qua sono domande veramente molto, molto forti, cioè noi stiamo toccando un argomento molto impegnativo. Le malattie esprimono, dicono che noi non siamo onnipotenti, siamo creature, e la nostra creaturalità ci espone anche alla provvisorietà, al limite, siamo persone limitate. E a volte alcune malattie sono procurate da noi stessi, dall'inquinamento che c'è attorno a noi, da quello che mangiamo, da qualcosa che salta nel nostro fisico, nella nostra testa, da un'embolia, da un ictus, da tutto quello che ci può succedere da un momento all'altro, proprio perché siamo creature. E allora, non è che Dio vuole che noi soffriamo, ma nel nostro percorso di creature c'è l'elemento della fragilità. Noi sappiamo che c'è un percorso di vita, il nostro percorso di vita è continuamente esposto a limiti di ogni tipo. Il punto è come cercare di vivere questi limiti. La fede diventa una modalità attraverso le quali noi possiamo far fronte a quello che viviamo. E la seconda sua domanda era altrettanto impegnativa, lei diceva, va bene, questo discorso può andar bene per chi crede, ma per chi non crede, come faccio io a testimoniare la presenza di Dio nei confronti di chi non crede, di un Dio che ama quando chiede delle cose impegnative? Cioè, è un conto. Per dire, è facile parlare, devi rassegnarti, ma accetta, ma va avanti. Magari io lo dico, sono una persona che cammino, corro, posso essere indipendente, posso andare in montagna, posso andare al mare, e è facile dire queste cose da parte mia, magari un'altra persona che è bloccata a letto, che non può più essere indipendente neanche in quelle che sono le funzioni fisiche più quotidiane, che prova l'umiliazione di farsi servire, magari 2 anni fa manco si sognava di ritrovarsi oggi in una situazione come quella, che magari sa che la sua malattia peggiorerà di giorno in giorno, esponendolo a ulteriori umiliazioni, a ulteriori malattie. Come faccio a dire tutto questo? È giusta la sua domanda, Antonio. Ecco, io penso che il Signore non chiede a noi di dare delle risposte, perché in fondo le risposte non ci sono a questi misteri. Il Signore ci chiede di essere segno della sua presenza. Prima dicevo, rispondendo a Daniela, no? Percorri le pagine della scrittura e prova a vedere come Gesù si accosta a chi è malato. Gesù, quando si accosta a chi è malato, non è che dà risposte, non è che moltiplica le parole. La sua è tutta una gestualità, è una gestualità che dice prima di tutto l'ascolto, che dice la vicinanza e che soprattutto entra in contatto con queste persone, cioè non resta lontano da loro, entra in contatto. Ecco, mi sembrava che dal suo intervento, Antonio, lei si trovi ad aiutare anche queste persone, ad aiutare concretamente queste persone, no? A manifestare una presenza, una vicinanza. Ecco, quello è sufficiente, l'essere presenti, l'essere accanto, saper anche entrare in familiarità con chi soffre, sapendo anche fare una battuta che magari a chi è esterno è inopportuna, ma per chi sta soffrendo è il segno di un rapporto familiare che invece è importante, che invece è prezioso. Ecco, questi sono i modi in cui riusciamo a dare un significato anche a pagine dure come queste, perché in fondo chi soffre, come dire, ha sempre timore, no, di diventare un peso per gli altri, oppure percepisce se stesso come una persona meno degna di ricevere l'attenzione, no, da parte degli altri. Invece è l'esatto contrario, chi soffre si trova in una situazione di maggiore creaturalità e proprio per questo maggiore preziosità agli occhi di Dio. E tocchiamo anche un ultimo argomento che lei ha così toccato di striscio, quello della malattia mentale, no? Penso che sia una delle forme di sofferenza più grandi, non tanto per chi la vive, perché forse chi la vive a un certo punto perde la cognizione del tempo, dello spazio e vive in un mondo del tutto suo. È difficile, ecco, pensare, immaginare cosa può immaginare, no, questa persona, cosa può pensare, ma pensiamo a chi gli sta attorno, per chi sta attorno, per un figlio che si trova a dover seguire una madre con l'Alzheimer, che non lo riconosce più come figlio, che non riconosce più la sua voce, le sue parole, i suoi gesti. Ecco, pensate anche a tutto quello che questo può voler dire. In questo caso, come si manifesta la fede? Sottolineando, continuando a, come dire, dare dignità a quella persona, continuando a trattare quella persona per quello che è. Quella persona resta per il figlio resta sua mamma. E quindi cercare in tutti i modi di mantenere alto questo rapporto con ovviamente tutte le contestualizzazioni del caso, è la via in cui Gesù manifesta la sua presenza. Per Gesù ogni persona è il figlio suo prediletto. Ricordiamo qui una delle pagine proprio, a mio avviso, anche più belle, no? Si apre il Vangelo di Marco e una delle prime persone che Gesù incontra è una persona posseduta da uno spirito impuro. Nel primo secolo si riteneva che molte malattie erano possessioni. E questa persona grida, si presenta a Gesù gridando e dicendo: ma cosa c'è tra me e te? quasi a dire la mia situazione è tale che io non ho più niente in comune con te che sei il portavoce di Dio. E Gesù cosa fa? Risponde cacciando lo spirito impuro che fa gridare così a questa persona e reintegrandola nella sua dignità, cioè per Dio ognuno di noi è figlio e guai al venire a meno di questa grande dignità. Grazie Antonio per il tuo interrogativo, per la tua riflessione, perché come vedi ci ha portato ancora a entrare in un argomento che non è facile da trattare. Certamente questi anche tentativi di piccole luci attorno a questi argomenti sono molto parziali, perché il mistero della sofferenza è davvero un mistero grande. Pronto? Sì, con chi parlo? Sì, buonasera, sono Filippo da Roma. Filippo? Sì, buonasera. Io qualche settimana fa mi sono reso drammaticamente conto del fatto che quando io prego per una persona e desidero anche la sua conversione, per esempio nel caso specifico anche per i miei figli e per mia moglie, mi sono drammaticamente reso conto che prego anche, cioè chiedo anche me, nella preghiera, come è successo a me, che se questo può significare l'arrivo di qualche croce, di qualche sofferenza, eccetera, questo è inserito nella preghiera, è una possibilità, perché io ho sperimentato, come sappiamo, che la salvezza viene dalla croce, dall'accettare la croce principalmente, e questo per me è stato duro, nel senso difficile, no? Specialmente per persone a cui tieni, ma quindi la tentazione principale è stata quella di ritirare, no? Di ritirarsi un pochino, un po' però, però ho visto che questo non è possibile, perché se tu credi sinceramente che c'è una conversione che ci aspetta tutti quanti, credi anche che bisogna fare quello scatto in più, che te la dà la fede chiaramente, di farlo, questo scatto in più, di chiedere anche se è nella volontà di Dio che venga anche questo, anche la sofferenza, anche la croce, eccetera, che poi però venga anche poi l'accettazione della croce. E poi mi è sembrato, e questo, su questo volevo un suo aiuto, e poi io sono sicuro che la frase che dice Gesù a Pietro, ciò che legherai sulla terra rimarrà legato e ciò che scioglierai rimarrà sciolto, c'entra in questa faccenda, in questo fatto di chiedere o meno la croce. Perché dico questo? Perché mi sembra che poi anche noi siamo chiamati a contribuire alla conversione dell'altro, aiutandone la croce, aiutandoli a accettare la croce, e questo anche chiaramente ci coinvolge in prima persona, specialmente appunto a persone a cui siamo legati, cioè, su questo ecco volevo un aiuto, grazie. Grazie Filippo per questo tuo intervento, ricordiamo anche noi tutta la tua bella famiglia attorno a te che hai evocato nella tua domanda. Ma nessuno chiede la sofferenza, neanche Gesù, mica l'ha chiesta lui la croce. In quella croce si è lentamente concretizzato il disegno del Padre e il disegno anche paradossale di un'umanità incapace di capire. E allora in quella via, come dire, si sono intrecciate due vie, il modo in cui Dio doveva manifestare la sua fedeltà all'uomo e il modo in cui l'uomo ha manifestato ancora una volta la sua durezza di cuore, ma Gesù non ha chiesto la croce. Nel momento in cui prega al Getsemani, Gesù chiede che, rendendosi conto che la situazione si faceva veramente vicina e molto dolorosa, chiede che il calice sia allontanato da sé. Nell'entrare alla preghiera, nella preghiera del Getsemani, e su questo Marco ha proprio dei versetti stupendi, Gesù prova paura e angoscia, una paura che si manifesta anche nel desiderio non solo di pregare, ma di avere vicino i tre discepoli che più di altri hanno assistito ai momenti più delicati della sua vita, poi falliscono perché anche questi tre si addormentano, però, e Gesù per tre volte li sveglia, però ecco, notiamo questa dimensione fortemente umana, l'uomo non è fatto per la sofferenza, nessuno di noi è fatto per la sofferenza, questa nostra creaturalità, il nostro cammino però ci espone ad essa. E le sofferenze possono essere di diverso tipo, ci sono sofferenze fisiche, ci sono sofferenze psicologiche, ci sono sofferenze interiori, spirituali, che e ognuno ha, come dire, il suo percorso da fare. Quindi nella preghiera non siamo chiamati a chiedere la sofferenza, siamo chiamati a chiedere la capacità di consegnarci. Ed è l'elemento che ho cercato di sottolineare all'inizio di questa nostra trasmissione, no? Quel verbo, la consegna, quello sì, quello è un verbo che caratterizza tutto il percorso di Gesù, dai primi passi fino alla fine della sua esistenza, dal primo momento quando Giovanni Battista viene arrestato fino alla fine. E la consegna, come dire, a consegnarci a Dio, ci possiamo esercitare quotidianamente, perché il nostro ritmo quotidiano ci chiede continuamente delle piccole consegne. Lei è sposato, ha dei figli, no? Quindi nel suo ritmo quotidiano ci sono le consegne, il fatto di consegnarsi a sua moglie. Sua moglie sarà la donna più brava di questo mondo, però avrà anche lei dei suoi difetti. Allora accogliere i limiti dell'altro è già una consegna. I suoi figli saranno i più educati di questo mondo, ma ogni tanto le daranno filo da torcere, anche lì si viene chiesta una consegna. Quante notti in bianco avrà fatto per qualcuno dei suoi figli? E questa è una consegna che viene chiesto ai genitori. Quante ore di lavoro, magari di straordinario, di sacrificio, le sarà chiesto? Sono tutte consegne, consegne che abitano il quotidiano. Ecco, se noi siamo fedeli nelle piccole consegne, sicuramente lo saremo anche nelle grandi, e senza chiederle, perché quelle arrivano da sole, e al momento ci sarà dato l'attrezzatura per farvi fronte. Quindi grazie anche a te Filippo per la tua domanda. È finito, cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione. Mi permetto un grazie a quanti sono intervenuti, perché veramente le vostre riflessioni hanno arricchito la nostra meditazione. Ringrazio gli amici di Roma, Adriana, Daniela e Filippo. Ringrazio il nostro Antonio da Padova, Lelio da Milano e Tommaso da Lecce. A tutti un caro augurio e soprattutto la preghiera, perché il dono dello Spirito si possa rinnovare nei nostri cuori, ci aiuti a discernere ciò che è bene, a imboccare la via del bene e soprattutto a perseverare in essa fino alla fine. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.